prego, che mi sa che sto in mareo. Busco calor in questa immagine del video. Busco en TV algún mensaje entre líneas.